svogliati e stanchi di esistere, non abbiamo più la forza di alzarci, di sdraiarci, di muoverci e di fermarci. Ci sono macchine sopra di noi, con sopra altre persone, e tra noi e loro le macchine eliminano scorie. We are destroyed by the rain, we are destroyed by the sun, we are destroyed by the wind, we are destroyed by the snow. Le scorie del mondo sono gli abbracci, le lacrime di gioia e dolore, sono la pelle dell'uomo, sono i battiti del cuore. Non sono una voce che dice incessante inserire qui la tessera, non sono un altro uomo ingombrante che ti fa un sorriso. We are destroyed by strong heat, we are destroyed by strong gold, we are destroyed per bene, rimane il prodotto ben confezionato e pulito, scevro da un utile amore gettato nei barili del mare, e cresce l'inganno e ti tolgono anche briciole di nostalgia di tua madre, di tuo padre, e la considerano malattia. Destroyed by a lost match, we are destroyed by a victory, we are destroyed by a child, we are destroyed by all people. Ogni ostacolo è maledetto, è una prova inutile, un ammasso evitabile di tempo da dedicare a non vivere. I nostri problemi risolti in un amen, ti dicono è tutto qua, ora siedi tranquillo, rilassati che ho la cura che ti salverà. We are destroyed by a friend, we are destroyed by an enemy, we are destroyed by the way of the sea, we are destroyed by the sleeping dawn. La nuova frontiera dell'esistere, l'essere o non essere oggi, è una sfida mentale che più scaltro la vincerà. Non ci sarà spazio per chi sarà vero, per chi ancora ci stupirà, perché sfugge al controllo, è un pericolo chiamarlo lì.